è un accordo che abbiamo apprezzato nella presentazione pubblica di oggi, abbiamo apprezzato anche la modalità di coinvolgimento e di rapporto col sindacato confederale, perché abbiamo voluto e il Comune ha condiviso di sottoscrivere lunedì un accordo complessivo che identificava le priorità di indirizzo e anche gli impegni economici straordinari di cui si fa carico il Comune, soprattutto se parliamo dell'emergenza abitativa. Lo apprezziamo perché si tratta di un intervento di grandi dimensioni, 200 milioni di euro, con diverse e importanti azioni: edilizia popolare, edilizia sociale residenziale, gli studentati, ma anche strumenti con la costituzione di una nuova agenzia sociale per l'affitto, ma anche la costituzione di un fondo in cui noi riteniamo necessario, come in altre fasi storiche anche della nostra città, richiamare un intervento economico del sistema delle imprese. Cioè, il sistema delle imprese non può intervenire ogni tanto sulla stampa dicendo che Bologna è una città che fa fatica ad accogliere lavoratori qualificati perché c'è un problema di disponibilità abitative, ma poi non interviene economicamente per rendere possibile la creazione di un patrimonio immobiliare da destinare alle fasce di lavoratori che arrivano in una città che è attraversata da processi anche di millennializzazione, cioè di aumento del mercato privato degli affitti. Quindi si riprende, diciamo, una pratica che in passato forse era un po' più diffusa, no? Quello che delle imprese che si impegnano anche per trovare un alloggio ai lavoratori e alle lavoratrici. E per noi di grande interesse, perché guarda che 50 anni fa fu sottoscritto, il 30 marzo 1973, un accordo tra il sindacato, tra CGIL e CISL e il Comune di Bologna, che identificava proprio le priorità di un intervento dell'amministrazione comunale a favore delle classi lavoratrici: trasporti pubblici, asili nido, alloggi popolari. Cioè, era la stagione che poi avrebbe portato alla questione dell'1% sociale, cioè il fatto che i sindacati, con CGIL e CISL e UIL, con un protagonismo allora del sindacato dei metalmeccanici, l'FLM, impegnavano le singole aziende, azienda per azienda, nella contrattazione aziendale a destinare una quota di risorse economiche per i servizi pubblici. Fu l'epoca della costruzione degli asili comunali, della messa a disposizione della classe lavoratrice dei trasporti pubblici, eccetera, eccetera. Oggi, 50 anni dopo, ritornano le stesse priorità: casa, salute di prossimità, e oggi però che si fa tanto parlare di responsabilità sociale di impresa, cambia il linguaggio, ma siamo di nuovo di fronte alla necessità che le imprese che investono a Bologna per quello che trovano a Bologna si facciano carico di un bisogno sociale, non in ottica di welfarismo aziendale, non che l'azienda prende la casa per i suoi dipendenti. A, perché non è possibile; B, perché ci sono tutta una fascia di lavoratori che sarebbero esclusi. E poi pensiamo a tutto il lavoro pubblico: l'infermiere, chi risulta aggiudicatario di un posto pubblico perché vince il concorso e poi rifiuta il posto perché non prende il posto perché non trova casa, gli insegnanti. C'è bisogno che il sistema delle imprese contribuisca a questo fondo a gestione pubblica.